America 24 di Mario Platero. Her husband Mark is here and he allows me to share this with you. A few minutes after we left her room and some of her colleagues from Congress were in the room, Gabby opened her eyes for the first time. Grandi applausi liberatori ieri in Arizona. Gabby Gifford, la deputata colpita sabato scorso in un attentato che ha sconvolto l'America, ha aperto gli occhi, continua a ripetere Barack Obama. Grande emozione, lacrime, è lo stesso presidente che dà la notizia appena tornato dall'ospedale, dove ha visitato con il marito di Gabby, Mark, l'astronauta, con altri deputati, la signora ferita in questa attentato appunto di sabato scorso, un attentato che ha sconvolto l'America per questa brutalità, contrappunto forse involontario dei toni altrettanto brutali del dibattito politico, di una retorica aggressiva, cruda, violenta, che ha pervaso radio, talk show, spot televisivi, dibattiti, comizi, prima e dopo la campagna elettorale dello scorso novembre. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ecco, è in questa atmosfera che ieri l'America ha vissuto una giornata di grandi emozioni, un'America raccolta ieri notte attorno ai 13.000 studenti, parenti delle vittime e cittadini di Tucson, dell'Arizona, che sono riusciti a entrare nello stadio dove Obama ha pronunciato un discorso funebre in onore delle vittime, dove ha cercato di raccogliere il paese, diciamo, attorno ai suoi valori più positivi, quelli del dialogo, dell'unità, della tolleranza, un discorso che ha avuto toni maturi, civili, sentiti, soprattutto se lo confrontiamo con un altro discorso, quello che ha pronunciato sempre ieri Sarah Palin, l'ex governatore dell'Alaska, aspirante candidato presidenziale addirittura. La sua è stata, secondo me, insomma, una scelta di pessimo gusto, condividere il palco che doveva essere di Obama, del paese, raccolto attorno alla Casa Bianca. Ecco, lei si è messa in mezzo, ha scelto un confronto diretto, quasi che fosse lei stessa un presidente ombra repubblicano. Insomma, la Palin è diventato un simbolo di questa retorica accesa, estrema, provocatoria, e ieri purtroppo poi non ha mai chiesto di fare un passo indietro, non ha mai ammesso che forse i toni erano troppo accesi, anzi ha difeso le radio, le televisioni che fomentano questo dibattito volgare e violento, ha commesso tra l'altro una gaffe gravissima, ha fatto un riferimento a uno dei luoghi più odiosi con cui secoli fa furono bollati gli ebrei, quello della cosiddetta accusa sanguinosa, ma di questo parleremo più avanti. Torniamo al presidente Obama, vorrei farvi sentire alcuni passaggi di questo discorso davvero toccante che ha colpito l'America, ha colpito tutti noi. George and Dorothy Morris. When gunfire rang out, George, a former Marine, instinctively tried to shield his wife. Both were shot. Dot passed away. George e Dorothy Morris, ha ricordato Barack Obama, ha fatto una lunga lista delle vittime. Per ciascuno Barack Obama ha voluto ricordare un dettaglio, un particolare, una madre, un figlio, un fratello, insomma ha dato una visione molto concreta, molto emotiva di queste vittime. Ha ricordato come George, un ex Marine, quando ha sentito la sparatoria si è buttato per terra con la moglie, si è buttato istintivamente sopra di lei, ha raccontato Barack Obama, non è servito alla fine, la moglie è stata colpita ed è morta. At a time when our discourse has become so sharply polarized, at a time when we are far too eager to lay the blame for all that ails the world at the feet of those who happen to think differently than we do, it's important for us to pause for a moment and make sure that we're talking with each other in a way that heals, not in a way that wounds. Ed ecco il cuore politico del discorso di Barack Obama. Il presidente non ha mai nessun momento di questo discorso puntato l'indice contro qualcuno, non ha mai fatto il nome di nessuno, non ha ovviamente menzionato Sarah Palin, ma non ha potuto non affrontare quello che chiaramente è un problema sentito dal paese, e cioè, come ha detto Barack Obama, quello della polarizzazione, un paese polarizzato Il presidente dice: nel momento in cui siamo così ansiosi di attaccare gli altri, di gettare la colpa sugli altri per tutti i mali del mondo o comunque contro coloro che la pensano in modo semplicemente diverso dal nostro, il presidente dice: è importante fermarci un momento ed essere certi che forse è più importante parlare fra noi in modo da poter sanare le ferite piuttosto che riaprirlo. Sono parole molto calibrate quelle del presidente, per non offendere nessuno. Molti in campo repubblicano si sentono in stato d'assedio, si sentono sotto accusa. Alcuni hanno approfittato della situazione per cercare di isolare, proprio in campo repubblicano, tra l'altro la stessa Sarah Palin, che aveva messo nel mirino di una pistola, come aveva detto la stessa Gabby Gifford, la deputata che poi è stata ferita. Ma vediamo come Sarah Palin è intervenuta in modo inelegante in questo dibattito. Journalists and pundits should not manufacture a blood libel that serves only to incite the very hatred and violence that they purport to condemn. That is reprehensible. Ecco, sentite questo passaggio del discorso. Sarah Palin attacca giornalisti e opinionisti che hanno costruito delle accuse, delle blood libel, dice, delle accuse sanguinose che servono soltanto a incitare le differenze, le divisioni e dunque non aiutano il dibattito. Questo passaggio è stato forse il più infelice del discorso della Palin, perché il termine accuse sanguinose ha un riferimento storico molto preciso, e cioè si riferisce alle accuse con cui si scatenavano secoli fa i pogrom contro gli ebrei. Gli ebrei venivano accusati di rapire bambini cristiani per poi ucciderli, prendere il loro sangue e fabbricare, produrre le azime durante le cerimonie pasquali. Accuse totalmente prive di senso, di alcun senso. Eppure questo riferimento serve alla Palin quasi per mostrarsi come vittima. Non è chiaro, tra l'altro, se lei sapesse, avesse idea che questo riferimento storico che ha usato si riferisse a questo episodio così brutto, drammatico, tragico nella storia della persecuzione contro gli ebrei. Fatto sta che ovviamente ci sono state delle reazioni durissime ieri da parte delle comunità ebraiche americane, che hanno sottolineato il pessimo gusto di questa affermazione, tanto più che Gabby Gifford, tra l'altro, è proprio lei stessa di religione ebraica. La Palin dunque non è uscita bene, conferma una volta di più di essere un estremista, un po' miope. Avrebbe potuto facilmente tendere la mano, invece si è rivolta soprattutto alla sua base politica e non ha mai fatto un passo indietro e ha ribadito il suo diritto costituzionale a usare quei termini del dibattito politico che meglio la aggradano, anche se non piacciono agli altri. If there are rain puddles in heaven, Christina's jumping in them today. Ecco la chiusura invece di Obama, di nuovo molto emotiva, un riferimento a Cristina, a questa bambina di 9 anni uccisa in questo attentato. Dice: se ci fossero in cielo delle pozzanghere, sappiamo che Cristina salterebbe nell'acqua. Una chiusura di discorso, appunto, rievocando il nome e l'aspetto più drammatico, più tragico di questo attentato, la perdita di questa bambina, che era una bambina straordinaria, pieni voti, un atleta, la prima della classe, ed era stata portata da un'amica della madre a questo evento proprio perché aveva sempre detto di avere lei stessa aspirazioni politiche. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Arcade Fire hanno annunciato che suoneranno il prossimo 13 febbraio alla premiazione dei Grammy Awards. Questo gruppo canadese è in lizza, tra l'altro, per vincere il titolo di miglior album del 2010 con The Suburbs. Degli Arcade Fire, The Suburbs.